Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ti ancora. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, dall'altro ieri invece da domani non lo so. Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso forte sotto le mie note, una copertina ed anche un video forte. Fidanzate tante quante se piovesse, anche se poi le paure sono le stesse. Ora che ho sempre tantissimo da fare, dici che non ho più tempo per parlare. Ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ti ancora. Ti voglio bene, e nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, l'altro ieri invece da domani non lo so. Un altro viaggio, poco tempo per decidere. Chi a caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso e non contento. L'allegria e la magia che hai rovinato. Ti ho visto camminare mezzo metro sopra il suolo. Dire in giro sono amico di Tiziano e rassicurarmi di starmi vicino. Poi chiacchierare al telefono da solo, dietro l'ombra di sorrisi e gesti accorti. Sono passati faticando i nostri giorni. E per quanto non sopporti più il tuo odore, mi fa male dedicarti il mio rancore. E quindi uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ti ancora. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, dall'altro ieri invece da domani non lo so. Ti sono debitore di emozioni. Che al mondo non ci sono solo buoni. Magari questo lo sapevo, ma è diverso viverlo sulla tua pelle come ho fatto io con te. Un latino a farci unire e poi pagare. Una canzone può anche non parlar d'amore. E ancora con tutto il mio cuore te lo dico, anche se da due settimane non sei più il mio amico. Uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ti ancora. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, dall'altro ieri invece da domani non lo so. Uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ti ancora. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, dall'altro ieri invece da domani non lo so.